Fujiko Focus On, riflettori accesi su attualità, società e politica. In questi mesi si è tornati a parlare della cosiddetta alternanza scuola-lavoro e in particolare è tornato virale sui social un video dello storico Alessandro Barbero in cui interviene sul tema. L'ormai celebre divulgatore si scaglia in quella clip contro quella che lui ritiene la base ideologica dello stage scolastico, l'idea che i ragazzi faccia male passare troppo tempo a studiare, che sia meglio stare un po' in fabbrica, stare un po' a lavoro come si faceva una volta. Di alternanza e di stage scolastici siamo qua a parlare oggi con Ludovico dell'Unione degli Studenti. Ciao Ludovico, benvenuto. Ciao, grazie mille per avermi invitato. Partiamo dalla fine. Perché dopo anni dall'introduzione, dall'obbligatorietà, si è tornati a parlare di alternanza scuola-lavoro? Diciamo che negli ultimi anni innanzitutto l'alternanza scuola-lavoro ha subito una serie di cambiamenti, si è differenziata nella sua formula, sia più formale in realtà quella sostanziale molto meno, però è stata introdotta una serie di forme diverse di legami tra appunto scuola-lavoro, tra cui PCTO. Negli ultimi tempi sono successi due fatti che in realtà però sono parte di una lunga serie gravissimi, cioè due ragazzi, come ormai tutti hanno sentito, morti durante esperienze PCTO, alternanza scuola-lavoro di vario tipo. E questo credo sia poi il motivo che ha fatto un po' incendiare il dibattito intorno a questo tema e che ha fatto riprendere coscienza a parte sia i movimenti sia le organizzazioni rispetto alla gravità e anche a quello che citavi in introduzione, quindi l'ideologia che sta dietro questa questione. Facciamo un passo indietro, come funziona a grandi linee l'alternanza scuola-lavoro in tutte le sue varianti per gli studenti italiani oggi e perché non vi piace? Diciamo che l'alternanza scuola-lavoro nasce ormai un po' di anni fa, poi viene rimodulata in quelli che sono i PCTO, i percorsi appunto trasversali per l'orientamento e competenze durante la riforma successiva dell'alternanza, però come dicevo prima la sostanza cambia molto poco, cioè l'obiettivo rimane quello di portare studentesse e studenti all'interno delle aziende e quindi insegnargli quello che poi è un modello facendo credere allo studente o studentessa che non ci sia un'alternativa. Noi quando parliamo di scuola invece parliamo proprio di questo come degli studenti, di costruzione di alternativa reale, e nel momento in cui ovviamente non solo la scuola non dà gli strumenti per proporre e costruire un'alternativa ma addirittura evidenzia come questa alternativa non ci possa essere e solo un modello sia possibile, crediamo che il compito poi pedagogico educativo della scuola non abbia più senso e sia servito a quel punto al sistema. Si sente spesso dire anche fra le critiche che l'alternanza scuola-lavoro danneggia anche i lavoratori nella misura in cui insomma toglie possibili posti di lavoro, e così vi ritrovate in questa analisi? Assolutamente, diciamo che molto spesso ci troviamo davanti a studenti che vengono ovviamente non assunti ma utilizzati, si può dire, durante momenti di alternanza scuola-lavoro per andare a sopperire a quelle che sono carenze del personale, ovviamente sempre in ottica di manodopera gratuita, quindi se potremmo avere e avremmo voluto avere una serie di lavoratori pagati, lavoratori delle RGC pagate, con questo sistema non si hanno questi lavoratori perché il posto viene sostituito da un ragazzo spesso senza neanche le competenze e le conoscenze adeguate di una scuola che appunto è inserito in un progetto di alternanza. E questa critica per voi si estende anche al sistema degli stage e dei tirocini non retribuiti in generale, anche nel mondo universitario e poi più avanti nella vita lavorativa? Beh, sicuramente come dicevo inizialmente la questione è l'ideologia che si vuole far passare con tutti questi strumenti. Per noi come Unione Studenti poi la questione non è abolire in toto quella che è il legame tra formazione e lavoro, abolire sì l'alternanza scuola-lavoro nella forma in cui ad ora, però riuscire a costruire un modello che metta in critica invece il lavoro, quindi non perpetui solamente le dinamiche presenti. Quindi diciamo che tutti gli strumenti in cui la scuola è subordinata al mondo della produzione e alle sue logiche, per noi sono strumenti non evidentemente educativi. È giusto e sarebbe giusto invece ripensare da zero, perché ovviamente sostanzialmente, non solo formalmente, ma sostanzialmente cambierebbero il loro obiettivo, ripensare da zero quelli che sono i legami tra scuola e mondo della produzione e lavoro. Ecco, puoi dirci quali sarebbero per voi un po' di punti fermi in questa riforma della scuola, cioè in che modo modo ripensereste, rivoluzionereste il legame fra scuola e, diciamo, attività pratica, attività lavorativa? Certo, diciamo che noi mettiamo in campo una proposta che si chiama istruzione integrata, che, cioè, ti racconto anche un attimo da cosa parte da un punto di vista di pensiero. Parte dal presupposto che noi vogliamo una scuola con una capacità trasformativa sul mondo, quindi anche sul mondo della produzione, sul modello produttivo in generale, e nel momento in cui noi ci immaginiamo una scuola con una capacità trasformativa, noi abbiamo anche la necessità di riuscire a far conoscere alle studentesse e agli studenti quelle che sono le problematiche del mondo del lavoro, riuscire a farli criticare quello che è il mondo del lavoro e costruire, immaginare un modello di produzione differente. Il nostro proposta di istruzione integrata si basa su una serie di varie di questioni, però sicuramente al centro c'è innanzitutto la questione che ogni studente, anche all'interno di questo percorso, deve essere fuori dalla produzione, quindi quello che andrà a fare non andrà a creare profitto. In secondo luogo, i percorsi dovranno essere assolutamente gratuiti, dovranno essere collegati con quello che lo studente fa all'interno della sua scuola e soprattutto, molto più spesso rispetto a come avviene ora, fatti all'interno della scuola. Ciò non vuol dire far entrare un'azienda all'interno della scuola, ma ciò vuol dire iniziare a ristrutturare, a ricostruire dove ci sono, a utilizzare realmente quelli che sono i laboratori e tutta la didattica laboratoriale che si è persa tantissimo negli ultimi anni, soprattutto con l'avvento del Covid. Tornando un po' alla politica politicante, di ministro dell'istruzione in ministro dell'istruzione, l'alternanza, come tu stesso accennavi, è cambiata. Di fatto questo stesso nome che usiamo non è più corretto. Ecco, ci sono stati dei passi avanti per voi, delle vittorie che in qualche modo vi rivendicate? Io credo che tutti i passi avanti che sono stati fatti sono stati veramente così minimi che non possono essere considerati passi avanti, nel senso che all'interno poi della cornice generale non hanno un valore effettivo. Sicuramente riuscire a interrompere i patti tra MIUR e una serie di aziende, tra cui McDonald's, cosa che abbiamo fatto noi ormai 2 anni fa, se non erro, è sicuramente quella che si può considerare una vittoria. Però se si può considerare una vittoria, dall'altra parte abbiamo tutta una serie di sconfitte che abbiamo vissuto all'interno degli ultimi anni e la necessità di rimettere al centro l'idea di un modello diverso di scuola, perché la sconfitta e la vittoria non starà e non credo non stia sui singoli temi, quanto rispetto all'orizzonte di senso che vogliamo dare al modello di scuola, al modello di istruzione in generale. Ti faccio un'ultima domanda. Stiamo registrando in questo momento da una città, Bologna, in cui nelle ultime settimane qualcosa come 10 scuole sono state occupate all'interno di un grande movimento di occupazioni, di proteste che ha attraversato tutta l'Italia, avendo peraltro fra le rivendicazioni principali proprio l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro. Ecco, ti chiedo, qual è lo stato di salute del movimento studentesco in Italia? Ma io credo che dopo 2 anni di pandemia a livello nazionale qualcosa si sia sentito, cioè l'esigenza di studentesse e studenti di scendere in piazza, di occupare, quest'anno l'abbiamo vista chiaramente e ovviamente anche come organizzazione siamo parte di questo processo e sicuramente non unici artefici, anzi il movimento io credo in questo momento si stia rivitalizzando e credo sia utile che questa, cioè fondamentale che questa cosa avvenga per riuscire poi a contrattaccare realmente a un ministro che in questo momento vuole tutto tranne che ascoltare degli studenti, e questa cosa non la dico io ma la dicono le evidenze dei fatti, il fatto che il FAST venga convocato credibilmente poco, che le consulte vengano ascoltate solo formalmente. Sulla situazione bolognese poi mi credo che anche parlare con l'organizzazione radicata nella città sia la cosa migliore, però diciamo che anche lì il movimento credo si stia riprendendo e credo sia utile riuscire anche a creare sinergie tra le varie organizzazioni, in realtà movimenti all'interno della città e di tutto il paese, come si sono visti degli esempi anche nelle ultime settimane con la questione della GKN, per riuscire appunto a costruire qualcosa insieme che sia qualcosa in opposizione a quello che al massacro che si sta facendo nella scuola. Grazie mille Ludovico, grazie mille all'Unione degli Studenti. Grazie a te.